perché sono un cristiano apologetica. Viviamo in un momento difficile. Non mi riferisco alla situazione politica o sociale, ma a quella spirituale. Serpeggia nella società, profetizzata nella scrittura, uno spirito che vuole eliminare ogni differenza, che vuole appiattire ogni cosa e rendere tutto di uno stesso colore. Una dimostrazione evidente è avvenuta il 2 maggio 1998, quando è nata l'euro, cioè la moneta unica, per i paesi che aderiranno alla CE. Non più diverse monete come il franco, il marco, la lira. Tutti i paesi che si saranno accordati avranno un'unica moneta. Tutto questo mi lascerebbe indifferente se non fosse che lo stesso atteggiamento si trova anche nel campo spirituale. Si vogliono eliminare le differenze religiose, le varie identità. Si vuole nascondere ciò che divide le varie fedi per riscoprire i valori biblici che uniscono per arrivare ad una fede unica. Ecco perché oggi affermare «io sono un cristiano» non si discosta dall'affermare «io sono un buddista» oppure «io sono un maomettano». Ognuno non fa che testimoniare della propria fede, senza pretese esclusiviste. In fondo si pensa tutti crediamo in uno stesso Dio. Ritengo quindi a scopo di chiarificazione spiegare il perché io sono cristiano. 1. Sono un cristiano perché credendo in Cristo sono nato di nuovo. Sembra scontato che un cristiano sia colui che crede in Cristo, ma con questa affermazione testimonio che la mia fede non l'ho posta in una religione, in un credo, in un gruppo religioso, anche se la fede in Cristo non esclude che io abbia un credo che faccia parte di un gruppo religioso o di una religione, ma perché ho scelto Gesù Cristo. Inoltre, se mi definisco cristiano, non è un appellativo che mi sono dato io, ma lo hanno affibbiato per scherno. Per la prima volta dei pagani a coloro che seguivano Cristo, Atti 11 e 26. La mia fede in Cristo mi ha fatto diventare figlio di Dio come sta scritto. Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, Giovanni 1, 12-13. Sono cristiano quindi non perché qualcuno mi ha fatto diventare tale con il battesimo, perché ho dei genitori cristiani, o me lo sono meritato mediante le mie buone opere, ma perché Dio mi ha fatto diventare suo figlio per grazia. Ed io ho scelto di vivere secondo le regole morali stabilite da Gesù. 2. Ma il mondo è pieno di religioni e di persone che hanno fede. Qual è la fede giusta? Un popolo religioso con una tradizione millenaria è quello ebraico. Come ogni popolo religioso che si rispetti, anche loro hanno un libro sacro, l'Antico Testamento che troviamo nella Bibbia. L'Antico Testamento è composto di 39 libri, ed in uno di essi sta scritto: poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani. Affermazione più che normale, perché ogni gruppo religioso afferma di essere nella verità, e tutti coloro che non ne fanno parte sono nell'errore. La confessione di fede degli ebrei però continua, per cui leggiamo: Yahweh invece ha fatto i cieli, Salmo 96, 5. La fede dell'ebreo non è basata sulla convinzione che il suo Dio sia quello giusto, ma che il Dio in cui crede sia il creatore della terra e dell'universo. Nessuna religione presenta il suo Dio come la causa prima di ogni cosa. Il Dio in cui credono gli ebrei non è quindi un Dio sconosciuto, un qualcuno, una forza impersonale, un essere di cui non conoscono nulla, ma è il Dio del quale vedono le opere, che ha lasciato una testimonianza della sua esistenza, della sua potenza e della sua sapienza. E questo Dio è Gesù Cristo. La fede giusta è dunque quella ebraica. 3. Ma il Dio degli ebrei e dei cristiani non è uguale a quello dei musulmani o dei buddisti, con la differenza che lo invocano con un altro nome. La risposta è no, prima di tutto perché solo il Dio degli ebrei e dei cristiani è l'unico ad essere il creatore. Inoltre, il Dio dei cristiani è composto di tre persone uguali come natura e distinte come persone. È solo Gesù Cristo che ha un padre, una delle tre persone della Trinità. Nessun'altra religione ha tale fede. Secondo i musulmani, Allah non ha un figlio, e Cristo non è morto in croce. Dal momento che Gesù ha detto che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, Matteo 11:27, per comprendere e conoscere il vero Dio debbo ascoltare e conoscere Gesù. 4. Ma perché credere solo in Cristo e non anche in Maometto o in Buddha? Perché tra i fondatori di religioni solo Gesù ha potuto affermare che le scritture rendevano testimonianza della sua presenza già nell'Antico Testamento, Giovanni 5:39, 8:58. Inoltre Gesù è stato l'unico profeta che sia stato preannunciato da tutti i profeti. Decine e decine di profezie, dalla sua nascita alla sua resurrezione, sono state adempiute alla lettera nella vita di Gesù. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, perché chiunque può affermare di essere un profeta che parla da parte di Dio. Solo Gesù ha potuto affermare: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me», Giovanni 14:6, e ancora: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo», Matteo 11:27. Gesù non ha affermato che tutti possono accedere a Dio in qualsiasi modo, e neppure che Dio è conosciuto da altri profeti. Egli si è presentato come l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'unico conoscitore del vero Dio, l'unico che può salvare, l'unico ad essere la via che conduce al cielo, l'unico ad essere la vita, l'unico ad essere la verità. È dunque indispensabile porre una fede incondizionata solo in Gesù perché Egli è il vero Dio. 1 Giovanni 5:20. 5. Ma Gesù è veramente Dio? Una volta veniva messa in discussione l'esistenza di Gesù, oggi viene messa in dubbio la sua divinità. E questo è normale, perché se Gesù è Dio allora la nostra fede ha un punto fermo e l'uomo non ha più scuse per dubitare in Lui. Una cosa è certa, Gesù non poteva essere solo un uomo, perché ha parlato e vissuto come Dio. Tra le tante sue straordinarie affermazioni, egli si è dichiarato senza peccato. Cosa impossibile se fosse stato solo un uomo. Perfino Maometto, che si è definito l'ultimo profeta di Dio, ha confessato per 3 volte a Dio di essere un peccatore. Tra le sue straordinarie opere, Gesù più volte ha rimesso i peccati, compito questo esclusivo di Dio. Se Gesù non è Dio, è stato indiscutibilmente il più grande impostore della storia. Inoltre, la constatazione che Gesù parlasse e si comportasse come Dio non è stata fatta per primo dai suoi discepoli, perché questi hanno creduto nella divinità di Gesù solo dopo la sua resurrezione. I primi ad accusare Gesù di essere Dio furono i suoi nemici, i quali certamente avevano più vantaggi di accusarlo per altre ragioni e non avevano alcun interesse a mentire. Nei Vangeli leggiamo che i giudei, in un'ennesima discussione, risposero a Gesù dicendo: «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Giovanni 10:33. Potrebbe anche darsi che dopo 2000 anni noi abbiamo compreso erroneamente le parole di Cristo, ma non certamente i suoi contemporanei. I giudei hanno fatto crocifiggere Gesù perché avevano capito che egli sosteneva di essere Dio. La morte di Gesù è stata quindi unica, perché egli non morì come un martire o un uomo di Dio, ma come Dio fatto uomo. La divinità di Gesù è stata dunque attestata dai suoi oppositori aguzzini, Marco 15:39, dichiarata sia con le opere sia con le parole da Gesù stesso e dai suoi discepoli. 6. Ma chi afferma che Gesù è Dio e che egli ha un padre? Sia la fede degli ebrei sia quella dei cristiani non è frutto della mente umana. La fede di queste due religioni in principio era una sola, perché la fede cristiana è l'unica fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè quella ebraica. Deriva dalla Bibbia, la quale è ritenuta parola di Dio, uno scritto che proviene direttamente da Dio. Pietro ha scritto in una sua lettera: «Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, Nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo, 2 Pietro 1:20-21. La fede cristiana, sostenuta da centinaia di profezie puntualmente avveratesi, è totalmente aliena dalla mentalità umana che non può essere parto di un uomo. Se si considera che la Bibbia è composta di 66 libri scritti nell'arco di 1500 anni, come poteva l'uomo ad avere un'armonia di pensiero come troviamo nella Bibbia? L'autore non può essere che qualcuno fuori dal tempo e dallo spazio. Questo qualcuno è Dio. 7. Ma chi mi assicura che la Bibbia sia la parola di Dio? È vero che la Bibbia è stata scritta da uomini, ma quando si legge il suo contenuto ci rendiamo conto della sua origine divina. A. Quale uomo avrebbe potuto profetizzare il futuro? All'uomo non è dato di conoscere il futuro, perché questa è una prerogativa di Dio. B. Quale uomo avrebbe potuto pensare la separazione tra Dio e gli uomini e il modo in cui è avvenuta la riconciliazione? Per natura gli uomini cercano di riconciliarsi con la divinità, e questo ha dato origine alle religioni. Secondo la scrittura, è stato Dio a scendere dal cielo e a prendere l'iniziativa di riconciliarsi con l'uomo. C. Quale uomo avrebbe potuto condannare di sua iniziativa i malvagi? Un uomo malvagio non lo avrebbe fatto, perché sarebbe andato contro il suo interesse dal momento che la scrittura condanna alla perdizione eterna tutti coloro che rifiutano l'Evangelo. Un uomo buono non avrebbe mai potuto farlo per due ragioni. Primo, perché la Bibbia afferma che non vi è nessun giusto, neppure uno. E quindi un uomo buono non può esistere. Inoltre, se esistesse un uomo buono non avrebbe il coraggio di condannare i cattivi a dei tormenti per l'eternità. Queste sono alcune ragioni per cui oggi io sono un cristiano, perché io credo che la Bibbia sia la parola di Dio, che Gesù Cristo sia il creatore e l'unico Dio. Questa fede si rivela la sola reale e giusta, per cui non credo in nessun'altra religione, ma unicamente in Gesù. Una vera fede in Cristo mi ha fatto diventare un figlio di Dio. La mia vita è cambiata perché l'ho adeguata all'insegnamento di Cristo, avendo creduto in Lui come il mio unico Salvatore e Signore. Per questo mi definiscono cristiano. Al termine di queste riflessioni pongo questa domanda: sei tu un cristiano? Gesù ha affermato: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3:36. L'asserzione di Gesù è chiara: dalla nascita tu sei separato da Dio e quindi sotto la sua ira. Ma se credi che Gesù, con la sua morte e la sua resurrezione, ti ha riconciliato per sempre con Dio, perdonandoti tutti i peccati presenti e futuri, ricevi la vita eterna, la natura divina. 2 Pietro 1:4. Dio ha fatto la sua parte. Ora tocca a te. Perché sono un cristiano? Prove esterne. Prima di spiegare perché sono un cristiano, sono costretto a definire chi sia un cristiano. Debbo confessare che mi è sempre stato difficile definire chi è un cristiano, soprattutto in questo periodo, nel quale vi è molta confusione religiosa. Vorrei ricordare che molti di coloro che oggi si definiscono cristiani, un giorno saranno delusi in cielo. Avranno fatto miracoli, avranno parlato nel nome di Cristo, ma saranno cacciati all'inferno. Come essere sicuri di non far parte di questa categoria di persone? Quando una persona afferma di essere un cristiano, inevitabilmente dimostrerà la validità della sua testimonianza con i suoi comportamenti. Possono essere diverse le prove esterne di un cristiano, ma qui di seguito ci limiteremo ad esaminarne 7. 1. 2 Corinzi 5:14-17. La sua vita cambia. L'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno, da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quando una persona diventa cristiana, inevitabilmente la sua vita deve cambiare. La ragione è molto semplice. Dal momento che nessuna religione è giusta, qualsiasi fede professi sarà sempre in errore. Anche se la persona fosse cresciuta in un ambiente cristiano, quando diventa cristiana il suo rapporto con Dio, con i fratelli e con il mondo cambia, deve cambiare. Il famoso slogan cristiani «si diventa e non si nasce» condanna tutti coloro che non hanno una vita nuova. La vita di uno che si professa cristiano cambia, se non cambia è un illuso e non è un cristiano. 2. 1 Giovanni 3,14 «Ama i fratelli». Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Quando una persona diventa cristiana, ama Gesù Cristo perché è diventato il suo Signore e Salvatore. Per questo egli sente anche un impulso nuovo verso i figli di Dio. Le persone che prima gli erano estranee diventano importanti per lui. Egli avverte la necessità di trovarsi con loro e di parlare di Gesù perché la fede che hanno in comune li unisce. Avvertirà che l'affetto verso i cristiani è maggiore di quello verso i suoi familiari e questo perché scorre in lui la stessa vita. 3. Romani 10, 9-11 Confessa la propria fede. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ciò non significa che un cristiano debba essere un missionario o un predicatore, ma appena ne ha l'opportunità testimonia della sua esperienza di fede e dell'amore di Dio. Dopo molte testimonianze ho concluso che tutti ci siamo trovati in circostanze dove potevamo presentare il Vangelo e non lo abbiamo fatto per paura o vergogna. Una vera fede può mancare in certi momenti, ma non sempre. 4. 1 Giovanni 3 e 10, 2, 3, 5 e 18, odia il peccato, ama la giustizia. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Il peccato è un'esperienza umana. Ma quando una persona diventa un figlio di Dio, peccare diventa un incidente, non una prassi normale come era prima. Lo Spirito di Dio si chiama innanzi tutto Spirito Santo. La prima caratteristica dello Spirito è quindi la santità. Un vero cristiano ama la santità, perché lo Spirito di Dio che abita in lui lo spinge ad amare la giustizia. 5. Romani 8 e 16 ha la testimonianza dello Spirito. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Abbiamo tutti delle convinzioni profonde, ma per ciò che riguarda l'essere cristiano, nessuna persona può esprimersi in merito se non per mezzo dello Spirito Santo. Non sono tanto ingenuo da non sapere che vi sono persone che affermano di essere cristiane e non lo sono, ma se esiste una testimonianza falsa, ciò significa che ve ne è una vera. Un cristiano è colui che ha le altre prove esterne di cui stiamo parlando, ma se nel suo cuore non avesse la testimonianza dello Spirito di appartenere a Dio, può mettere in dubbio la sua fede. 6. Giovanni 5, 37-38, 1 Corinzi 2, 12-16, comprende le Scritture. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Una prova che le Scritture provengono da Dio è che nessuno le può l'uomo può afferrare nozioni storiche o geografiche della Bibbia, ma il messaggio spirituale non può essere afferrato dalla mente umana. Ho visto molte persone una volta convertite gioire per lo Spirito perché potevano finalmente comprendere ciò che enunciava la parola di Dio. Ricordiamoci che il cristianesimo è una rivelazione, e questa è possibile solo quando si diventa figli di Dio perché si è ricevuto lo Spirito Santo. 7. Ebrei 11 e 13. Si riconosce un pellegrino.